Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Saturday was okay, I had you in my sleep. Never mind the blown charade, uncertainty. Iniziata la seconda parte di Eclettica, la seconda parte del volume numero 4, dato che ce ne sono 5 alla settimana, dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 20. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo da utilizzare nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera, cosa che vi permetterebbe di ricevere direttamente nella vostra casella di posta la playlist settimanale, che è comunque a disposizione sempre alla fine di ogni settimana anche su myspace.com/eclettica, sito dove trovate anche le indicazioni su come avvalervi del podcasting di questa trasmissione. La seconda parte si è aperta con gli statunitensi Kaku Kanu, dopo che la prima si era chiusa con i laziali Kuzo e la loro Ale. Voglio spendere un po' di parole invece sul gruppo che sta per arrivare, che nonostante sia al 13° album è al primo passaggio in assoluto all'interno delle playlist di Eclettica, nonostante questa trasmissione sia presente ormai da 14 stagioni sulle frequenze di Rock FM. Loro si chiamano Misophone e hanno una storia particolare, come particolari sono spesso le storie che vi racconto degli artisti qua all'interno di Eclettica. Vi ho detto che questo è il loro 13° album, ma pensate, è il primo album pubblicato da un'etichetta, i 12 precedenti erano tutti autoprodotti. L'etichetta in questione è la Kning Disc, etichetta svedese, per cui esce l'album dal titolo lunghissimo Where Has It Gone All the Beautiful Music of Our Grandparents, It Died With Them, That's Where It Went. Questo era il titolo dell'album. Quello del brano invece è The Sea Has Spoken. We'll be right back. Every night, year after year, one of you guards locks us up in these boxes. Well, I hereby say, sir, enough! Stay, I cannot pray you stay. I tend to be away. I try to find a scam, but you suggest that to me. I never be afraid. I'm shitting now. Il 25 settembre 1264, sul far del giorno, il duca d'Auge salì in cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica. La trovò poco chiara. Resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là. Sulle rive del vicino rivo erano accampati un unno o due. Poco distante un gallo, forse Odeno, immergeva audacemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto romano, gran saraceno, vecchio franco, ignoto vandalo. I normanni bevevano calvados. Il duca d'Auge sospirò, pur senza interrompere l'attento esame di quei fenomeni consunti. Gli unni cucinavano bistecche alla tartara, i gaulois fumavano gitan, i romani disegnavano greche, i franchi suonavano lire, i saracineschi chiudevano le persiane. I normanni bevevano calvados. «Tutta questa storia», disse il duca d'Auge al duca d'Auge, «tutta questa storia per un po' di giochi di parole, per un po' di anacronismi. Una miseria. Non si troverà mai una via di uscita?» Questo era l'incipit de «I fiori blu» di Raymond Queneau. Switches are insane. My hands are Erano questi The Warlocks con il brano intitolato So Paranoid e prima ancora gli italiani Red Worms Farm con un buon ultimo album dal quale io sempre vado a estrarre il brano intitolato Beastie. Ora invece una band per cui ammetto la debolezza, ammetto che l'ho fatto semplicemente per poter dire che esisteva una band con questo nome, non è che il pezzo mi abbia convinto più di tanto, però volevo dirvi che esiste nel Missouri, a Springfield, una band il cui nome è Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Il brano si intitola Glue Girls. Name's Jedediah. All right, Jedediah, stop the train, please. It's a big no-can-do, Cracker Jack. What's going on here, huh? Somebody's gotta pay. Pay for what? I don't know, just pay. Now stop whining and just take it like a man. Seriously, stop the train. All right, stop the train. Thank you. Now full speed ahead and ram him. Split his head like a watermelon. Crying out loud. Slow starts and the best, slower than Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 12, volume numero 4. Indice: Friars, Xiu Xiu, Collection of Colonies of Bees, Kelly De Martino, Kuzo, Kaku Kano, Misophone, Red Worms Farm, The Warlocks, Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, The Body Revels. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.